sei ancora qui, Barbaro, assaggia il mio vino. Le donne del mio paese voi non le conoscete. A 30 anni sono già vecchie e il loro volto è duro come la terra che lavorano. Non c'è sorriso sulla bocca amara delle donne del mio paese. Di domenica quando vanno in chiesa non vanno per incontrarsi con Dio. Ma per godere di un'ora di riposo e non c'è sorriso nel loro cuore. Nemmeno quando nasce un bambino allora suona la campana a morte. Perché non c'è pane per un'altra bocca? Ma c'è pure un giorno in cui sorridono le donne del mio paese. Di luglio vado tutto e di tutto il grano. E gli uomini cantano la sera sotto gli olmi a margini del campo. Un paese ci vuole. Non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente. Nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo. Che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.